Melog. Cronache meridiane. Di Gianluca Nicoletti. Gli occhi lividi, alcune escoriazioni, un grande ematoma sulla fronte. Fabio, 13 anni ieri, è tornato a casa così, nella sua Mugnano alle porte di Napoli, preso in giro prima e picchiato selvaggiamente poi da alcuni suoi coetanei. Riempito di botte, calci e schiaffi, senza un perché. Nascondiamo il suo volto e la violenza che ha subito, nonostante sia stato il padre a renderli noti. Con una foto su Facebook ha denunciato l'accaduto, prima ancora di farlo alle autorità competenti ha chiesto agli utenti di condividere e commentare il post, perché quello che è successo a mio figlio oggi non deve e non dovrà accadere a nessuno. L'invito è stato raccolto e migliaia hanno condiviso la foto, i genitori hanno sporto denuncia, i bulli sono stati individuati. Fabio è stato medicato in pronto soccorso ed è tornato a casa con una prognosi di 7 giorni per traumi e contusioni facciali. È più importante denunciare che proteggere la privacy, ha spiegato il padre di Fabio. La denuncia penale, ma anche quella pubblica, non bisogna pensare che possa succedere solo agli altri. L'unico modo per combattere il bullismo è sensibilizzare tutti, e la foto di mio figlio ridotto così può servire ad evitarne altri. È un bel problema. Io nella mia memoria ricordo che qualcosa di simile è accaduto finora soltanto in casi di donne picchiate dai loro uomini, dai loro mariti, che prima ancora di denunciare mettono la foto su Facebook, volti tumefatti, con gli occhi neri, con i segni di percosse. E anche allora si sollevò un dibattito: ma è giusto mettere su Facebook un'immagine prima ancora di ricorrere alla giustizia, alle forze dell'ordine e via dicendo? Poi si parlava di donne consenzienti maggiorenni. Qua si fa un passo avanti, ma che è normale, è gioco forza che accada. I social network non sono più, non so se mai lo siano stati, uno strumento di trastullo per giovani e giovanissimi. Sono mai l'interfaccia reale che ogni essere umano, dotato di un appendice che si chiama smartphone, per trasferire a tempo reale ogni propria sensazione, ogni propria preoccupazione, angoscia, paura, gioia, rapimento al mondo che lo circonda, quello degli amici che lo seguono o delle persone che anche lui non conosce, che hanno comunque modo di accedere al suo profilo. E nel caso, nella fattispecie di questa famiglia di un comune alle porte di Napoli, Mugnano, che ha messo subito in internet la foto del bambino tredicenne con i segni delle percosse, un episodio spiacevole e triste, vigliacco, ma che accade praticamente ogni giorno, di cui ogni giorno comunque si hanno delle cronache. Tornava a casa con un amico, incontra i bulletti comunque hanno da dire qualcosa, lo picchiano, lo malmenano. Torna a casa, si lamenta con i genitori prima ancora di prenderlo per mano e andare a fare una denuncia, gli fanno delle foto e le mettono su Facebook. Ora, il ragazzo ha 13 anni, il ragazzo è minorenne. Voi trovate che sia una maniera giusta e corretta? Ma diciamo, la diffusione mediatica il padre l'ha ottenuta, 28.000 condivisioni, cioè 28.000 click su quella foto di persone che comunque l'hanno vista, può essere la stessa persona, l'ha vista più volte, comunque un numero sproporzionato rispetto alla stretta cerchia di parenti, degli amici, dei compagni di scuola, se l'episodio fosse rimasto circoscritto nella cerchia familiare o del gruppo sociale in cui il ragazzo si muoveva. La domanda ci facciamo oggi: è questa una maniera nuova per usare i social network? Da una parte c'è il bypass rispetto alla fiducia nella giustizia, nell'iter che seguono appunto le forze dell'ordine rispetto a casi simili, c'è la voglia, sicuramente la voglia di sputtanamento di quelli che hanno fatto questo a tuo figlio, bisogna farlo vedere quello che hanno fatto mio figlio. Sì, però si trascura un particolare: il figlio ha 13 anni, al figlio andava veramente di essere messo in rete, di essere fatto vedere con la faccia picchiata dai bulli? È per lui un episodio che in qualche maniera segnerà la sua vita? Il suo essere consenziente, comunque un atto che fanno i genitori di lui tredicenne, può essere in futuro riconsiderato? Quando il ragazzo sarà maggiorenne, cercherà un lavoro, vorrà presentarsi a altre persone, vorrà avere una sua dignità sociale, far vedere la foto di lui picchiato e malmenato dai bulli può giovargli, può essergli utile, può fargli piacere, visto che da Facebook, una volta messa dentro una cosa, è difficilissimo toglierla? Questa è la domanda. 800240024. A tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Credo di non aver avuto nessun tipo di coraggio particolare. Secondo me ci vuole più coraggio a non denunciare, a non condividere certe cose, perché credo che la condivisione sia l'unica strada per far sì, insomma, che quello che è successo a mio figlio non succeda a nessuno. Può sembrare banale, può sembrare retorico, ma io credo che sia l'unica strada possibile. La privacy onestamente mi è stata violata nel momento in cui mio figlio è tornato in quel modo a casa. Credo che la privacy sia qualcosa che non è che debba essere uno strumento, non è uno strumento che aiuta a risolvere le cose e non crei altri problemi. Quindi la mia scelta di pubblicare una semplice foto, ho pubblicato la foto come ho pubblicato quelle al mare, credo che sia l'unica cosa che abbia sensibilizzato tutti, perché tutti devono sapere, sanno che probabilmente che cos'è, però non sanno quelle che sono le conseguenze. Mio figlio è la viva conseguenza di quello che è successo. Lei ha parlato con Fabio della sua scelta di pubblicare la sua foto su Facebook? Certamente che ho parlato con mio figlio, parliamo di tutto. È chiaro che lui era in un momento in cui ha fatto quello che credo che faccia ogni ragazzo della sua età, si è semplicemente fidato del padre, perché mio figlio sa che del padre e della madre si può fidare. Era già successo in passato che fosse vittima? Allora, io faccio un discorso da persona totalmente laica rispetto a questo gesto, da analista, diciamo, della comunicazione. Il padre indubbiamente ha richiamato l'attenzione sul figlio. Questo è indubbio che abbia usato Facebook. Poi adesso vedremo se in maniera propria, inopportuna, opportuna o giustificabile. Comunque sia, ha consumato una segnalazione preventiva rispetto a un torto che aveva subito il figlio e ha comunque inchiodato le persone che hanno compiuto questo gesto all'evidenza delle loro azioni. Poi tutto questo va approvato, deve seguire un iter giudiziario regolare, è vero, però ha usato Facebook in una delle maniere in cui si può usare, ha usato come un martello, ha dato una martellata addosso agli altri per dire guarda cosa ha fatto mio figlio. Oggi ne stiamo parlando alla radio, i media ne parlano, quello avete sentito è il padre intervistato, quindi comunque sia ha usato in maniera efficace uno strumento che aveva a sua disposizione. Questa efficacia poi è dettata dalla rabbia, da un momento di impeto, da una sorta di patto fra padre e figlio che bypassa e non dà fiducia a quelli che sono i canali regolari a cui ci si rivolge quando si subisce un torto. Questo è un altro discorso. Voi cosa avreste fatto nei suoi panni? Avreste agito nella stessa maniera? Siete disposti ad agire nella stessa maniera? Finora mi arrivano soltanto sms del tono: il padre va a prendere una mazza, andare dai bulli e genitori e spaccargli la testa e cose del genere. Ha fatto benissimo, se dovesse sfiorarla ancora, una foto dei vigliacchi in prima pagina, altro che privacy, galera. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, sono Gianluca. Andrea Rossetti, ricordo che è docente di informatica giuridica alla Bicocca a Milano e dirige il Bicocca Security Lab. Andrea Rossetti, sono anni che parliamo comunque della percezione della privatezza, del diritto in rete. Questo padre, secondo te, ha compiuto un'azione corretta o legalmente sospetta? No, allora, dal punto di vista della legge è il padre che gestisce l'immagine del ragazzino, quindi dal punto di vista del diritto effettivamente il padre, con il permesso dell'altro genitore, anche ha la possibilità di pubblicare, di utilizzare l'immagine del figliuolo come meglio crede. Qui c'è in gioco effettivamente l'immagine del ragazzino, che è minorenne, ampiamente minorenne, e effettivamente si potrebbe dire che in qualche modo la sua immagine non viene tutelata, ma perché la legge prevede che nel caso di minorenni colui che debba tutelare l'immagine del ragazzino sia il genitore. In questo caso paradossalmente è il genitore che potrebbe aver violato invece appunto il diritto al ragazzino alla propria immagine. Ti faccio un esempio, scusa Andrea, se io da giornalista avessi a disposizione l'immagine di un ragazzino picchiato dai bulli nella documentazione per scrivere il mio pezzo, io non potrei pubblicarla sul mio giornale. No, puoi pubblicarla pixelata, lì poi per i giornalisti c'è una normativa particolare, appunto una convenzione per la quale nel momento in cui anche se c'è il diritto di cronaca, io non posso pubblicare direttamente l'immagine, è il motivo per cui tutte le immagini che si vedono sui giornali del ragazzino sono pixelate. Ma c'è la carta di Treviso, abbiamo fatto un accordo. La carta di Treviso, esattamente quello. Sono anni, sono vent'anni che se ne parla, anche più. Infatti il ragazzino, per vedere effettivamente il volto del ragazzino, bisogna andare sul profilo del genitore, perché nessun giornale, nessuna televisione ha mostrato il volto se non pixelato e fondamentalmente irriconoscibile, insomma. Quindi troviamo davanti a una situazione che è un po' paradossale. ovviamente il diritto non ha una risposta a questo, perché il diritto si immagina che colui che tutela l'immagine del ragazzo sia in primo luogo il suo genitore. E abbia fatto la cosa migliore per il figlio. Abbia fatto la cosa migliore per il figlio, certo. Qui bisogna ovviamente vedere con il tempo. No? Ma ci sono precedenti in cui poi, magari, visto che ormai i social network sono da parecchi anni, in cui il minorenne diventa maggiorenne, magari cambia idea. Allora, in Italia no, per la verità. C'è una sentenza in Austria in cui appunto la figlia è diventata maggiorenne, ha chiesto ai genitori di togliere alcune foto che la ritraevano, insomma, da bambina. I genitori non l'hanno fatto e il giudice però ha dato ragione alla ragazza intimando i genitori di rimuovere queste foto. In Francia è in discussione, appena approvata, qui non ho ben capito, una legge che prevede per i ragazzini, cioè diciamo per quelli che diventano maggiorenni, di richiedere ai genitori di rimuovere le immagini o se no di fargli causa, insomma, come pezzo di legge sulla privacy. In Italia non c'è ancora nessun caso, cioè non è ancora successo che qualcuno diventato maggiorenne abbia poi in qualche modo intimato i genitori di rimuovere le immagini, questo non l'hanno fatto e quindi si è andati in giudizio. Sì, perché se vogliamo giocare sul livello del paradosso, questo ragazzo a un certo punto dovrebbe anche scocciarsi di passare sempre come quello pestato dai bulli, questa cosa. Certo. Maura Banca, buongiorno. Buongiorno a lei. Psicoterapeuta, presidente dell'Osservatorio Nazionale Adolescenza, ha scritto Generazione Hashtag, gli adolescenti disconnessi, Alpes Edizioni. Secondo lei, dal suo punto di vista, nel suo osservatorio, ci troviamo di fronte a qualcosa di nuovo, onestamente? È difficile da definire, ma cerchiamo con gli strumenti di cui abbiamo possibilità di avere qualche minimo riscontro, di analizzarlo. Secondo lei questo ragazzo è stato in qualche maniera sovrapposto nella sua volontà di essere esposto dal padre? Allora, sicuramente è un caso estremamente delicato questo, perché appunto, come si diceva, in Italia non ci sono precedenti da questo punto di vista. C'è una sorta, questo è importante sottolinearlo, perché c'è una esasperazione. Quando un genitore arriva a fare una cosa del genere è perché veramente non ne può più ed è esasperato da quello che succede. Il problema oggi qual è? È che le parole, avendo perso l'efficacia e la potenza comunicativa che hanno, va tutto veicolato attraverso le immagini. Quindi a volte c'è quasi una scelta automatica in certi casi e obbligata da altri punti di vista. In questo specifico caso si tratta di un minore. Io mi confronto quotidianamente con i minori che per esempio sono costantemente arrabbiati con i genitori perché i genitori inseriscono nei social network delle foto loro che non gli ritraggono magari in condizioni in cui loro non avrebbero mai voluto. Quindi questo è vero. Beh, io penso la condanna di un ragazzo di 15 anni che la mamma mette ancora le foto di quando aveva il pannolino, quando era, esatto, cioè, è una tortura. Esatto. Cioè, è quotidiano questo problema, cioè, nel momento in cui si cerca un'identificazione col gruppo, un'omologazione e tutto quanto, che ci si ritrovi appunto a mettere foto imbarazzanti. Io da questo punto di vista sono assolutamente d'accordo con i ragazzi. In questo caso però, nello specifico, c'è una condizione in cui un genitore voleva dare un messaggio estremamente forte a tutti i genitori, perché oggi purtroppo passa tutto tramite i social network, le notizie vengono lette lì, l'efficacia comunicativa dei social network è impressionante, perché io in quel momento mi identifico immediatamente con un padre ed è come se fossi io, ed è per quello che ci sono migliaia di condivisioni in pochissimo tempo. Un figlio quindi è stato esposto da un certo punto di vista, però in questo specifico caso, per esempio, che non parliamo di una vittima sistematica, di una vittima umiliata come per esempio dal branco di Vigevano, dove ci sono state sevizie sessuali, sevizie nella sua intimità e nella privacy. Il genitore gli sta cercando di dire anche lì c'è un discrimine molto delicato, la descrizione, sì, punto per punto, la sevizia sessuale fatta con la pigna, forse, non lo so, visto che ormai è non so nel raccontare poi quanto si aggrava il peso di una persona già stata vittima. Qui mi trova d'accordo assolutamente con lei. Il discorso della pigna io l'avrei evitato, perché quel ragazzo subisce da anni questo tipo di angherie ed è veramente in una condizione di instabilità psichica, perché è implicito che essere schiavizzato e viziato da un punto di vista sessuale, e io sinceramente avrei evitato assolutamente, perché allora fermiamoci un istante, perché poi mi servirà, perché vorrò capire, sì, con lei qual è secondo lei la reazione, perché il gruppo dei bulli, il branco, che sa che ha colpito quel ragazzo, in questo momento si sente sotto l'occhio, anche se ancora nessuno ha chiamato i loro genitori, anche se i genitori non li hanno nemmeno sospettato, probabilmente sono loro, sanno, se ne parla alla radio, se ne parla in televisione, si vedono sui giornali, sanno che su di loro c'è un cerchio, si sta restringendo, quindi in qualche maniera sentiranno una pressione che altrimenti non avrebbero mai sentito. Secondo le procedure regolari, tutt'al più la mamma va a protestare a scuola, vengono chiamati i genitori cascano dalle nuvole, il bullo continua imperterrito. In questo caso si sentono il fiato sul collo. Anna, buongiorno. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, l'ascolto. Io ho avuto la stessa problematica con mio figlio, era terza media ed era costantemente vessato da un ragazzino a scuola. Ho provato a parlare con i professori, hanno sottovalutato. Ho provato a parlare col preside, ma è un ragazzo disagiato. E poi ci ho parlato io con il ragazzo. Ho capito, disagiato, però non è che sei disagiato. Sì, però c'è sempre questo buonismo. Vabbè, perché adesso bisogna vedere cosa succede nella scuola a Napoli. Il ragazzo, a papà ha messo le foto e poi dopo cosa succederà? I ragazzi stanno a scuola, sono minorenni, non possono... Cosa fa? Pigliamo il bambino che ha avuto le botte e lo mandiamo in un'altra scuola, lo teniamo un po' più lontano e il danno ce l'ha sempre il bambino. No, lei dice una cosa giusta, in effetti non ci ho pensato. Quando tornerà a scuola ormai tutti i compagni di scuola vedranno la sua foto, lo sapranno, ormai è un caso nazionale. Ormai è diventato... Secondo lei per questo ragazzino è meglio o peggio questa diffusione? Lo rispetteranno o lo prenderanno ancora più in giro in maniera più sottile? Bisognerebbe entrare nella testa dei ragazzini, anche dei bulli, che sono sicuramente dei personaggi un po' pericolosi a questo punto, perché non hanno fatto l'azione vessatoria finalizzata a se stessa, l'hanno picchiato, lo volevano annientare. Io ho risolto con mio figlio, perché mio figlio è di una bontà allucinante. Sono andata a scuola, ho aspettato la fine delle lezioni, ho preso il ragazzino bullo, l'ho preso per i capelli, l'ho strisciato lungo tutto il muro della scuola. Ma con la faccia, con i capelli, l'ho strisciato, sì, vabbè, l'ha sfregiato, l'ha sfigurato. L'ho stroppiato, si dice da noi, l'ho stroppiato. Sì, vabbè, ma sono lesioni gravissime a un minorenne. Sì, non ha fatto niente nessuno. Io ho risolto il mio problema. Mio figlio non ha avuto più problemi, il ragazzino ha capito, adesso mi sa. Vabbè, ma mica tutti hanno una mamma serial killer, scusi. Bene così, io vengo fuori da un disagio mio personale di infanzia. Ma lei, scusi, ma lei aveva già chiamato una volta la bulla? Sì, Ah, beh, adesso, allora ferma, rimanga lì, lei è un'esperta. Questa signora ce l'ha chiamato tempo fa, era una persona che da giovane ha fatto la bulla, ha picchiato tutti per tutta la vita. Adesso sembrava che avesse capito, ma da quest'ultimo episodio mi sembra di capire che persiste nella sua attività. Lei ha strusciato la faccia di un bambino, seppur colpevole, un atto di bullismo sull'intonaco della scuola. Questo è un atto perfetto, che merita approfondimento. Scuola, vabbè, altrimenti potevo avere danni. Cioè, nel senso, dentro rovinava l'intonaco, in che senso? Scusa. Dentro le mamme guardavano, facevano, fuori poteva sembrare. Ma questo qua faceva, piangeva, strillava, che faceva questo bambino? Era terrorizzato. Beh, ci credo, viene un Nerini scatenata, ti prende per i capelli, ferma sì, un attimo. Prendeva a calci nella schiena mio figlio, piuttosto che vedere mio figlio su una sedia a rotelle, io ho detto, ok, va bene il rumore di catene, basta il rumore di campane. Ma poi me la spiega, ferma, resti lì, dobbiamo dare un attimo la linea, poi me la spiega meglio, rumore di catene, rumore di campane e cosa significa. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24. Immaginavo che facendo parlare l'ascoltatrice che ha preso il bullizzatore del figlio, il bullo che prendeva a calci il figlio, lo ha preso per i capelli, lo ha trascinato lungo tutto il perimetro della scuola, strusciando il volto sull'intonaco, lasciando probabilmente una strisciata sull'intonaco, ha detto così, in questa maniera non ci proverà più, che non voglio vedere mio figlio sulla sedia a rotelle, non è successo niente, tutti buoni. Infatti è arrivato il visibilio, viva Napoli, si fa così, dice io, troppo fragili e impauriti, se fossero difesi già da subito i buller ci penserebbero due volte. Un altro mi scrive, mia figlia 8 anni è capace di uccidere, nessuno la bullizza. un altro ancora, il padre facendo così ha fatto passare il figlio per una mezza sega, e quindi adesso per tutta la vita si porterà dietro questa sorta di onta di essere stato vittima dei bulli. Sono punti di vista, noi analizziamo con civiltà, ribadendo il fatto che prendere un bambino e sbatterlo sul muro è un reato fatto da un adulto, questo non toglie nulla. Sentiamo Giancarlo. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno a tutti quanti. Direi che il papà secondo me ha fatto bene. Tra l'altro non si tratta di nulla di infamante. Il fatto che un ragazzo le prenda da 5 persone non è che fa la figura della mezza sega, come ha detto qualcuno. Vabbè, sa, la gente chiacchiera. È stato vittima di un pestaggio, non è che... Sì, è stato per fortuna oltretutto non gravissimo, 7 giorni sì. Di prognosi. Però il papà sa probabilmente molto bene, come abbiamo visto noi in tante occasioni, che se non sei su internet o sulla televisione non succede nulla. Abbiamo visto le Iene e la notizia portare un problema alla ribalta ed ecco che le forze dell'ordine si attivano in maniera straordinaria, cosa che non avrebbero fatto se non ci fosse stato sacrosanto, verissimo, dove vanno le Iene, dove va il Gabibbo, ci si muove fuori... più facile, certo, ci si muove con molta più paura di quanto si faccia con una semplice denuncia, è vero. E se mi permette anche di aggiungere un'osservazione sulla privacy in generale, trovo che sia un pochettino una presa per in giro questo scoppio del problema privacy in concomitanza con l'arrivo dell'informatica che ha sostanzialmente decretato la morte della medesima. Perlomeno la ridefinizione, non è più come prima. Bravo, cioè. Ho esagerato, la ridefinizione. Siamo a assurdità come la polizia belga non può andare a casa di qualcuno anche se sospetta terrorismo dopo le 10 di sera. Siamo ad assurdità come appunto quando io ho sentito questa notizia la prima cosa che ho pensato è sta a vedere che adesso va a finire che inquisiscono il papà per violazione della privacy. No, nessuno ci ha detto no, professor Rossetti. Non è così. Sì, sì, noi, guardi, io non sono né il cattivista per natura perché oggi va troppo di moda fare i cattivisti, insomma è stato buonista in vita mia. Osservo i fenomeni. Cerco di bilanciare le reazioni e dare un'idea di quello che è il sentire generale attraverso una trasmissione che è un po' il termometro dell'umanità che compone il nostro paese. Basta con il buonismo e con nessuno tocchi Caino. A nessuno tocchi Abele, a Caino facciamogli il mazzo, scrive Stefano. Nicolò, buongiorno. Nicolò, abbiamo parlato? Sì. Parlato Nicolò. Giancarlo. Pronto? Nicolò, scusa. Sì, Nicolò. Buongiorno. Sì. Senta, io ho fatto una riflessione. Lei parlava di privacy, innanzitutto sono d'accordo col padre perché ha fatto un'azione estremamente provocatoria e ha fatto bene a renderla visibile, ma lei parla di privacy, però dov'è la privacy in Italia? È nel mondo, voglio dire. E poi volevo fare un altro appunto, lei già proietta 10 anni, 15 anni, quando il ragazzo dovrà immettersi sul mercato per un posto di lavoro, no? In un paese ma no, che non solo un posto di lavoro, quando avrà consapevolezza. Mi faccia finire. Sì, sì. Un paese che non ha memoria storica per avvenimenti importantissimi e gravi, poi non abbiamo memoria storica in Italia, no? Lei possa mai immaginare che fra 15 anni, 10 anni ci sia qualcuno che abbia la memoria di ricordare l'avventura di questa giornata? No, una cosa l'ha detta giusta. E faccio ammenda quanto detto, fra 15 anni avevo tanta roba sulla rete, ma talmente tanta, che anche soltanto andare a guardare come fanno oggi molte aziende quando c'è una ricerca di personale, il profilo Facebook, ci vorrebbero mesi a vedere quello che c'è in un profilo Facebook di un ventenne, fra 10 anni, è impossibile, sarà quasi qualcosa di indescrivibile e forse la privacy sarà riscritta proprio alla luce di quello che ci sarà talmente tanto che verrà a nulla. Andrea Rossetti, su quest'ultimo aspetto sollevato dall'ascoltatore. La verità è che tra 10 anni però ci saranno anche probabilmente degli assistenti automatici che saranno in grado di vedere tutta la roba che io ho pubblicato. Cioè ovviamente non saranno esseri umani che saranno in grado di analizzare la roba che io ho messo online, appunto perché ci saranno terabyte e terabyte di informazioni su di me. Però già adesso, già oggi, ci sono dei programmi che noi chiamiamo intelligenti, forse con un po' di esagerazione, che però sono in grado di collezionare e collazionare soprattutto. Beh, c'è un'applicazione che proprio da una settimana fa circola in rete, dove tu guardi il profilo Facebook di una qualsiasi persona, è impressionante. Perché esatto, ti mette esatto, in fila tutto, scritto, metterlo in fila è tutto quello che ha scritto, che ha detto, le foto ma che ha pubblicato. Ci sono anche software un po' più complicati, uno che si chiama Altego, ad esempio, che è open source, come si dice, fa ricerca ed intelligence sulle fonti aperte. È un po' complicato da usare, ma se uno sa usarlo, effettivamente trova cose che non si trovano semplicemente, no, andando a vedere i profili o compulsando un po' i social media che uno utilizza. Quindi no, il vero problema è che in realtà appunto magari non avremo memoria storica. storica per i grandi avvenimenti, ma invece la memoria storica per quello che farà il mio vicino, il mio nuovo vicino di casa, o che, insomma, che andrà a vedere il mio datore di lavoro, è quella ci sarà, sarà estremamente precisa e puntuale. Quindi questo non è da sottovalutare, questo aspetto. Diciamo, noi, noi stiamo prendendo contatto e confidenza con il mezzo, facendo anche probabilmente delle esagerazioni, degli errori, delle omissioni, degli atti sbagliati, però non ci rendiamo conto, e lo impareremo a nostre spese, che in realtà tutto lì rimane, tutto lì si conserva. Volevo riprendere un attimo con la dottoressa Laura Manca, rispetto a Anna, che è ancora in ascolto, alla quale può fare delle domande. Può esserci, diciamo, una reazione esagerata se partiamo da questa idea che comunque si inizia da Facebook e poi si può arrivare anche a farsi giustizia da soli? Allora, pubblicare una foto come ha fatto appunto il padre non è un discorso di giustizia, è un discorso di sensibilizzazione, perché appunto tante volte non si capiscono realmente gli esiti di quello che possono essere questo tipo di comportamenti. Farsi giustizia da soli non è la soluzione del problema, perché io con i miei occhi vedo quotidianamente innumerevoli ragazzi che hanno paura di parlare. Calcolate che quasi 9 adolescenti su 2 che subiscono bullismo non ne parlano coi genitori. Ma questo perché? Perché molte volte hanno o paura delle reazioni dei genitori, anche a volte sproporzionate, perché una reazione comunque eccessiva in quella fascia di età può comportare tutta una serie di problematiche, appunto da inserimento del gruppo, non condivisione degli altri membri, essere isolato ulteriormente. Hanno terrore appunto di questo tipo di reazioni. Altre volte hanno paura, si vergognano anche di quello che gli succede e quindi poi non vogliono anche creare problemi in casa, sperano che passi, sottovalutano essi stessi il problema. Ma la paura della reazione eccessiva del genitore è frequentissima. Quindi quando è umano, allora sottolineiamo che istintivamente quando a un genitore gli viene toccato un figlio, implicitamente è umano che scatti la rabbia e che venga istintivo comunque una sorta di vendetta. Questo è istinto materno o istinto paterno. Ma nello stesso momento non si deve perdere il fatto che un genitore sta educando un figlio e che quindi gli deve dare anche degli insegnamenti, dare anche la tranquillità di poter parlare con lui e cercare una serie di soluzioni, ovviamente che non sono con la violenza, perché il figlio si inibisce ancora di più da quel punto di vista. Sentiamo Anna, completiamo il suo intervento. Lei non ha paura che suo figlio abbia la sensazione che se non interviene la mamma e mena, lui da solo non è capace di uscire da una vicenda? Guardi, potrebbe anche essere. Intanto io ho risolto il mio problema delle scuole medie. Immediato, sì. Immediato, l'ho risolto. Questo ragazzo, voglio soltanto dire una cosa adesso, questo ragazzo che ha preso le botte da me, adesso studia, non ha dato più fastidio a nessuno. Certamente non è che io gli ho fatto la ramanzina. La ramanzina non serve, io l'ho letteralmente terrorizzato. Aveva la possibilità di lasciare in pace i ragazzi oppure di morire. E allora lui ha scelto, mi voglio integrare. Forse non va bene con tutti. Perché lei l'ha minacciato anche di morte, l'ha minacciato, ha detto ti ammazzo. Più o meno. Una bella strigliata, ma bella, forte. Non si è presentato nessun fratello, nessuna sorella, nessun genitore, nessun professore, perché nessuno se ne fotteva di questo. Intanto questo faceva il bello e cattivo tempo a scuola. Poi è finita. È finita che per i successivi anni mio figlio l'hanno lasciato in pace, forse non tanto perché lui è buono, disponibile, ma quando c'è una mamma tremenda, ma tremenda. Quindi c'è una mamma, sta attento a quello che ti prende la madre e ti sfascia, quindi nessuno lo toccava. Sì, però non è che per tutta la vita non c'era la madre dietro. No, io spero che mio figlio cambi, ma non diventi come la mamma quando era piccola, ma quantomeno che riesca. Però lui è buono, è proprio buono, è come se fosse stato adottato da me. Non è come se non ha preso nulla da lei. Niente, zero. Lui dice mamma, gli altri sono diversi, io sono così. Se era buono il padre, se ricordo la sua storia, il padre anche era uno che le pigliava spesso da lei, quindi. No, era buono, buono, poverino. Quindi almeno qualcosa dal padre va ripreso. Grazie Anna, preziosa testimonianza. Luca. Sì, buongiorno Nicoletti. Ma io dico basta con questo Facebook, ma si rende conto di quanti problemi ha creato? Beh, che vuol dire basta? creando e creerà, ma siamo passati dalle casalinghe frustrate ai gattini e poi ora siamo arrivati alle ragazze riprese durante l'atto sessuale, alle violenze subite dalle donne, le donne che vengono raggirate dall'Africa, perché io la seguo, sento tutto. Lo so, fa parte del mondo moderno, cosa vuole fare? Sì, va bene, ma crea solo problemi. Ora, se questa persona... Ma stacchiamo tutto, che facciamo? No, può sapere la soluzione. Questo, ma non lo so cosa bisogna fare, però sicuramente... bisogna regolarlo un po'. Regolarlo, perché... sì, ma si sta. Io penso che la regolazione avviene nel frequentarlo, a mano che si frequenta, si ha maggiore consapevolezza, sì, si vedono i limiti. Ma lì siamo diventati tutti guardoni, tutti pettegoli. Ora, questo babbo cosa ha concluso? Cioè, intanto ha concluso che oggi se ne parla, sì. E non è più un fatto allora, isolato. Se lui voleva denunciare il fatto del bullismo, andava in questura, faceva la denuncia, i giornali ne parlavano lo stesso. Vabbè, sarebbe rimasto in un verbale nella stazione carabinieri di Mugnano e lì rimaneva, tutto il pieno avrebbe parlato ma a scuola. No, ma non è vero che rimaneva, ma a livello regionale perlomeno lo diceva. Ma si figura, ma sai quanti ci sono stati casi con ragazzi violentati, ragazzi suicidi, sì, ragazzi picchiati? Era un caso considerato trascurabile. Cosa succede ora? Che il babbo riceverà tante pacche sulle spalle. E il figlio rimarrà sfigato per tutta la vita, anche quando andrà all'università si ricorderanno di lui. Questa è una cosa che dobbiamo considerare. Il mondo è cambiato, non possiamo farci niente, cambia continuamente il mondo. La gente dice quando c'è questa corrente elettrica. Non lo so, mica faccio il profeta. Io osservo quello che vedo intorno a me e con dati certi, non è che faccio, se no chiami il mago Telma. Non lo so che succederà. C'è sempre questa idea, qualcuno dice il mondo va a scatafascio. No, il mondo cambia, i cambiamenti creano qualche disagio, anche molti disagi, però il mondo è fatto proprio perché cambia. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Melog, cronache meridiane. Lo so, stanno protestando molti ascoltatori, dice non ci ha spiegato la storia delle campane e delle catene, Anna. Beh, vi lasciamo per la prossima volta che parteciperà. Lo so che fa sorridere, lo so che dentro di noi assolve ogni nostro istinto. Tutti vorrebbero aver avuto accanto la signora bulla Anna che prende tutti a schiaffi e ci difende. Ma si chiama guardia del corpo, è un'altra cosa. E anche le guardie del corpo hanno dei limiti. Non è che va sempre bene quando si risolvono le cose in questa maniera. Lo so che è l'eroina di questa mattina, Anna. Tutti mi dicono basta, buonisti, avete rotto le scatole, con i bulli questo si fa. Ma non è sempre così che funziona, non è che va sempre in questa maniera. Luca da Milano. Sì, buongiorno, senta, complimenti per la trasmissione, la seguo sempre anch'io. Volevo solo il mio intervento in questi termini, lo so che come si può dire, una proposta, utilizzare Facebook al contrario, cioè nel senso, se al posto di mettere questo bambino che è stato, diciamo, pestato, no? Se arrivasse al punto che chi ha pestato questo bambino venga per legge messo su Facebook, no? Tra 20 anni, quando qualcuno andrà a guardare cosa hanno fatto Rossi Mario quando aveva 15 anni, si accorgerà che il signor Rossi Mario quando aveva 15 anni ha fatto questo, questo e questo. È una specie di fedina penale che è mondiale. Sì. Ok, lo so che è una proposta assurda, no, però no, cioè, guardi, adesso arrivata a questo momento, visto che il mondo va avanti, allora portiamocelo avanti, mettiamo veramente il signor ragazzo Rossi Mario ha compiuto questi gesti. Ho capito. Fermo un attimo, sennò abbiamo capito perfettamente. È un altro uso della rete. Ci sono dei paesi dove hanno ritenuto opportuno mettere delle liste di persone che hanno compiuto reati particolarmente spregevoli, come pedofili. Facebook può diventare la bacheca che immobilizza le persone che hanno avuto comportamenti scorretti, quindi una sorta di pena, una sorta di gogna. Andrea Rossetti, rispetto alla proposta del nostro ascoltatore, quali sono i precedenti? No, il precedente è che in realtà in Europa è stata da non molto, insomma, promulgato un regolamento che prevede proprio invece il diritto all'oblio, insomma, perché le persone cambiano e se una notizia ha effettivamente motivo di essere sul giornale e accessibile a tutti per un certo periodo di tempo, magari 30 anni dopo, magari dopo che queste persone sono state assolte e comunque dopo che hanno scontato la pena, magari non è più il caso di fargliela trovare, insomma, no? Quindi quello che sconcerta un po', ma anche leggendo i commenti sotto la foto, è il livello di diciamo, civismo giuridico che hanno molti dei commentatori. Siamo veramente messi male. Insomma, fammi, no? Un esempio, sembra... fammi un esempio. Ma no, ma cioè, moltissimi esempi dicono che bisognerebbe picchiare i genitori dei bambini che hanno, dei ragazzini che hanno picchiato questo ragazzino. Alcuni passano addirittura a mani ferme, ma cioè, sono robe veramente che fatte in un altro contesto farebbero scattare probabilmente delle sanzioni di tipo penale. È un po' il tono degli sms che mi stanno arrivando. Esatto, però sembrano che l'unico modo per farsi giustizia sia quello di farsi da soli, e non è mica vero, insomma, no? Per carità, con tutti i limiti che possono avere le nostre forze dell'ordine, però operano sul territorio, cercano di fare del loro meglio in base ai mezzi che fanno, e comunque il diritto è stato inventato proprio perché dobbiamo evitare la giustizia fai da te, che è comunque una forma di vendetta. E questa è una cosa fondamentale. È veramente un po' scoraggiante vedere che questa idea in realtà in moltissime persone non passa. Ma io, se oggi avessi voluto fare una trasmissione demagogica sulla pancia del pubblico, avrei detto: bene, cosa fareste ai bulli, esatto, ai genitori? Esattamente. E facciamo l'elenco delle pene, copriamoli di pece e di piume, impaliamone. Dottoressa Mauro Manca, c'è però, diciamo, se dobbiamo leggere un indicatore rispetto alle reazioni del pubblico, alle reazioni sotto la foto pubblicata, c'è un senso però non detto di non sanata maniera di comporre i propri disagi, le proprie liti, i propri dissapori con le mani e con la violenza anche nei genitori, dietro al bullismo? Sì, assolutamente sì, soprattutto quando si tratta di bullismo scattano queste forme di, appunto, di vendetta, di distruzione nei confronti dei bulli e quant'altro, ma è una questione quotidiana. Qui nello specifico caso io li leggo tutti i giorni questo tipo di reazioni. Da un lato però devo dire una cosa, c'è veramente, lo ripeto, un'esasperazione, perché tantissime volte quando si denuncia nelle scuole non c'è subito un ascolto, non c'è subito un intervento efficace, non basta sanzionare un bullo per due giorni, sospenderlo per una settimana, quindi certe volte si arriva davvero a dover dire determinate cose perché non c'è un argine, cioè questo fenomeno ovviamente sta dilagando da tanti punti di vista ed è implicito che è vero che poi intervengono le forze dell'ordine, ma sotto i 14 anni a questi ragazzi non si può fare niente e noi ci troviamo davanti a bulli e baby bulli di 7, 8, 10, 12 anni, quindi a un certo momento è implicito che ci si debba lavorare. Però Mauro Manca, fare, diciamo, le foto segnaletiche dei bulli non si dà ancora più forza e carisma alla loro vocazione di fare i bulli, mettendo il sito Facebook, la pagina Facebook con le foto dei bulli? Ma secondo me farebbero una gara per entrarci dentro, chi è bullo, radicalmente bullo. Assolutamente sì, innanzitutto, ecco, bisogna fare una differenza, non è questo assolutamente il mezzo efficace, perché sono anche dei ragazzi che tantissime volte, questa attenzione, non sto giustificando nessuno perché vengo ciclicamente sono attaccata, tantissime volte sono dei ragazzi che non hanno neanche realmente idea di quello che stanno facendo, perché a livello educativo non hanno sviluppato un senso morale, per cui anche se io li metto alla gogna, questo non risolve in certo senso il problema, perché sono dei ragazzi che vanno educati, perché io li posso mettere alla gogna, io li posso punire anche per un anno di servizi sociali, gli posso fare per paradosso anche picchiare, li incattivisce ancora di più. Esatto, se stiamo parlando di problematiche importanti che per esempio che hanno già deviato questi ragazzi, non sono solo bulli, anzi tutto questo gli dà popolarità, non hanno empatia, non gliene importa assolutamente niente di quello che dicono e che fanno. È indubbio che invece i ragazzi che si comportano in maniera prevaricatoria senza avere un senso di quello che fanno, magari spinti dal branco, su di loro c'è un intervento che si può fare. Però bene, dottoressa Manca, devo chiuderla perché la sigla, se no la interrompe, è molto brutto. Continueremo, non è un argomento che si esaurirà sicuramente questa mattina. Alla prossima.